La foglia chiara contiene 4 atomi di azoto. La foglia scura contiene 2 atomi di azoto. L'infuso deve contenere tra 7 e 9 atomi di azoto e almeno una foglia chiara e una scura. Quante foglie scure servono per una porzione di tè affinché l'infuso sia potente ma non pericoloso?